kusineki non telesi non esiste odio nel THC. Abbiamo appena ascoltato Seduci, il nuovo singolo di Bisco, giovane cantautore bolognese classe 95, che abbiamo qui ai nostri microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao Filippo, come stai? Ciao, bene, grazie. Ti va di raccontarci un po' il tuo nuovo singolo? Allora, Seduci, è un brano che fin dal principio aveva un po' questa atmosfera, questa attitudine un po' spunk, almeno nel cantato. La volontà produttiva è stata quella di fare convergere quel mondo lì con un mondo invece un po' più elettronico, più Depeche Mode, Battles, anche quasi psichedelico a tratti. Il risultato è stato appunto questo brano. Si discosta un po', se vogliamo, dal mio progresso, ma in realtà penso abbia anche una certa continuità. Sei giovanissimo, ma hai già all'attivo vari progetti musicali e hai aperto i concerti di Cosmo, Fulminacci e la rappresentante di Lista, solo per citarne alcuni. Cosa ti ha spinto ad iniziare a fare musica? Ma io ho iniziato a fare musica penso in terza media, cioè ho iniziato a suonare, ho iniziato con la chitarra, non ho mai preso lezioni in realtà, sono un autodidatta e devo dire che a volte si sente. Ho iniziato a scrivere canzoni invece mosso un po' dalla curiosità di come si facesse a scrivere una canzone. Io sono sempre stato un ascoltatore appassionato di musica, circa 8 anni fa più o meno ho iniziato a scrivere le prime canzoncine, ho messo in ordine questo progetto qui, Bisco, con cui ho pubblicato un disco a inizio dell'anno scorso. A proposito del tuo disco precedente e anche dei tuoi progetti passati, e sono sicura che ce ne saranno di futuri, qual è un po' la continuità, qual è un po' il filo rosso che li unisce tutti? Allora, il filo rosso secondo me è quello di essere sinceri ai massimi livelli, no? Credo che sia la mia cifra e voglio che continui ad essere, nel senso che non faccio musica pensando al mercato, pensando a un ritorno di pubblico, la faccio anzitutto per dire delle cose che altrimenti non riuscirei a dire. E c'è un po' una ricerca sonora e produttiva che non è molto italiana nel linguaggio, quindi il fatto che poi si incroci invece con dei testi cantati in italiano secondo me potrebbe essere interessante. Da qui mi viene spontanea farti la domanda: quali sono i tuoi maggiori riferimenti e quali sono i tuoi ascolti anche? Diciamo band iconiche del passato, sicuramente citerei Joy Division, i Cure, anche gli Smith, devo dire. È stato molto presto ad ascoltare gli Smith. Per quanto riguarda la musica italiana, ho un debole da sempre per i Baustelle, di recente i CCCP, insomma, tipo questi gruppi che hanno scritto un po' la storia della musica italiana. Altri riferimenti invece più contemporanei, non che i Baustelle non siano ovviamente, Arcade Fire, MGMT, e Radiohead anche, ultimamente molto, molto Radiohead. Siamo arrivati all'ultima domanda, ti voglio chiedere se c'è in programma un tour estivo e soprattutto per noi ascoltatori di una radio bolognese se c'è qualche data in programma qui a Bolo. Allora sì, sebbene, come dire, teniamo tutte le cartucce migliori per quello che sarà il tour che seguirà il disco, che diciamo uscirà entro l'anno, facciamo qualche data anche estiva. A Bologna suoniamo il 9 giugno in Montagnola. Saranno una ridotta di date, appunto perché vogliamo concentrare un po' le energie per la fine dell'anno. Beh, intanto noi invitiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici il 9 giugno in Montagnola e di prepararsi a quello che sarà il tuo disco che arriverà. Grazie mille Filippo per la bella chiacchierata, per averci tenuto compagnia. In bocca al lupo per tutto. Grazie a te, crepi lupo. Ciao, ciao, grazie.